Abbiamo recitato il Te Deum, anzi cantato il Te Deum, no? Quindi un ringraziamento al Signore, come tradizione della Chiesa e anche nell'opera, alla fine dell'anno e alla fine di questo tempo, ringraziare il Signore per tutti i suoi benefici. E lo abbiamo fatto insieme con il canto e adesso nella nostra orazione prima della messa possiamo continuare a rivolgere al Signore il nostro ringraziamento e poi lo continueremo a fare anche lungo la messa, che è la preghiera di ringraziamento per eccellenza. Offriamo la messa in ringraziamento, no? La nostra messa è un po' come l'ultima attività dell'anno, potremmo dire, e allo stesso tempo la prima attività dell'anno nuovo, no? Quindi noi concludiamo l'anno con una messa di ringraziamento e cominciamo l'anno con una messa lo stesso di ringraziamento. Cioè, grazie al Signore che ci dà del tempo ulteriore, no? da vivere, e cioè siamo felici di poter avere anche il 2019, no? Da stropicciare, da stritolare, da spezzettare, no? Giorno dopo giorno, da renderlo come un grande panino l'anno, che a piccoli morsichi noi mangiamo e ci nutriamo, ma poi anche lo spezzettiamo e lo diamo in giro, no? Spezzettiamo briciole di bene, no? Intorno a noi lungo l'anno nuovo, no? Pensate, ogni giorno 365 giorni di bene. Di bene da fare, di bene da ricevere e di bene da ringraziare, no? Cioè, di cui renderci conto, no? che siamo immersi nel bene, no? Siamo come in un oceano di bene, no? Siamo come quando in cucina, non so come si fa, ma insomma si immerge qualcosa per imbeverlo di, non so, di rum, per esempio, no? Oppure di pomodoro, non so, di qualcosa, no? E prima a cena si scherzava sentendo Don Armando che nell'altro tavolo, diciamo così, magnificava le bellezze di Bari, anche e soprattutto culinarie, no, che ci ha portato in regalo, non so, 2,5 kg di orecchiette fatte a mano lì dalla signora di Bari Vecchia, e poi soprattutto era felice perché aveva mangiato una focaccia da sole 2 euro, ma totalmente nutriente, cioè il fatto che fosse sole 2 euro e fa parte della gioia, no? E quindi noi, diciamo, nel tavolo dei milanesi, diciamo, ha fatto un'immersione nella terronità, no? E questo è tornato tutto. Quindi questo, mi sono distratto adesso in orazione, ma volevo dire che l'immersione nel bene, ecco, no? Noi ci immaginiamo un 2019 immerso nel bene, lo chiediamo al Signore, ma in realtà il Signore ci dice: tu sei sempre immersa nel mio bene, no? Sei sempre immersa nella Trinità, sei sempre appunto circondata dall'amore di Dio, no? Circondata dall'amore di Dio. E, così come noi nel festeggiare Maria come madre di Dio, con lei celebriamo appunto l'ultima messa dell'anno e la prima messa dell'anno, no? La Madonna Madre di Dio, è molto bella questa idea che hanno avuto nella liturgia nuova, quella dopo il Vaticano II, di spostare qui la festa della maternità di Maria, che prima era l'11 ottobre, pensate, no, c'è un motivo storico, ma perché era l'11 ottobre, ma però evidentemente era lì in mezzo nella ferialità più feriale, no? E invece adesso primo di gennaio, che poi festeggia anche un momento importante della vita di Gesù e anche della vita di Maria, che è, anche se è un momento piccolino, che è la circoncisione di Gesù, e quando gli viene dato il nome di Gesù. Il nome di Gesù, che poi nei Vangeli si dice che lo chiamerai Gesù, lo dicono alla Madonna e anche a Giuseppe, no? Però è molto probabile che sia stato Giuseppe a dare il nome, perché era il padre, no? Che dava il nome al figlio, e che significa Salvatore. Per cui è un momento importante, è il momento che, che per noi corrisponde al battesimo in Gesù, no? E quindi ecco, dopo 8 giorni dal Natale la Chiesa ha preferito così mettere in evidenza Maria anche in questo momento della vita del suo bambino Gesù, che è un momento fra l'altro solenne, così entra ufficialmente a far parte di Israele, poi faceva parte della legge il primogenito, no? I maschi, no? Dovevano fare questo rito, che però anche aveva una dimensione anche di sofferenza per i poveri bambini e penso anche per Maria, no? Per cui gioia, il bambino viene chiamato Gesù, entra così ufficialmente in questo popolo di Israele, di cui lui sarà il salvatore, poi di tutto il mondo, e però anche un piccolo dolore, no? Qualcuno dice anche con quelle poche gocce di sangue lui poteva essere sufficienti per salvare il mondo, no? Però ovviamente ha pensato bene di manifestarlo il suo amore anche attraverso la sofferenza, in modo così inequivocabile e adulto e libero sulla croce, no? Però da questo si vede che anche ricordate che nostro padre diceva appunto all'inizio dell'anno in letizia nulla dies in cruce, no? Lo scriveva sul calendario liturgico, così dicono, e allora nella gioia e nessun giorno senza croce. Noi possiamo anche dire nessun giorno senza messa, eh? Cioè se è possibile andiamo a messa tutti i giorni, ma lì è la croce, no? della nostra giornata. Però allo stesso tempo possiamo anche dire nessun giorno senza gioia, nessun giorno senza la felicità di essere figli di Dio, no? La certezza di essere dentro a questo Gesù, noi con il battesimo e siamo entrati in Gesù, e quindi anche noi partecipiamo di questa sua festa, no? Di questa sua consacrazione a Dio, ulteriore, non ce n'era bisogno, ma insomma lui la fa, poi ringraziando il Signore, appunto, non c'è stata poi tutta la lotta dopo la sua morte, insomma San Paolo anche ha battagliato perché i cristiani che si battezzavano, cioè i pagani che si battezzavano, no, non dovessero fare questo rito e diventare in qualche modo ebrei, no? E quindi si precisa che non è necessario, e così sarà per sempre per i cristiani maschi, che non hanno bisogno di questa cosa. E allora ecco, però noi comprendiamo che il piccolo Gesù e anche sua madre, anche suo padre, nella gioia della sua nascita, nella gioia dell'avere tra le loro braccia il figlio di Dio fatto uomo, di contemplare questo amore di Dio che si è fatto uomo nel grembo di Maria, che è entrato dentro alla nostra storia, dentro attraverso la loro famiglia, però hanno anche insomma complicazioni, dolori, alcuni sono così come legati alla legge, al compimento della legge di Mosè, e altri sono legati invece ad altre cose che sappiamo che succederanno nella loro vita, no? La povertà, l'esilio, l'incomprensione e così via, no? Allora, questo noi lo meditiamo, no? Guardiamo Maria e comprendiamo la tua infinita gioia, la tua infinita serenità, la tua infinita, come dire, fede in Dio tuo Padre, che ti ha dato questo destino grandioso e unico, e allo stesso tempo anche il tuo dolore. Allora aiutaci Maria, aiutaci Giuseppe, aiutaci Gesù appunto a entrare nell'anno con una maturità più grande che ci sappia aiutare a comprendere con gli occhi vostri e della Sacra Famiglia, con gli occhi della Trinità, questa mescolanza di gioie e di dolori di cui è intessuta la nostra vita. E, in effetti è una... oggi quando nella messa leggeremo, oltre a questo brano del Vangelo sugli 8 giorni prescritti per la circoncisione, e gli fu messo nome Gesù, no? Come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo, e leggeremo anche dei pastori, prima dei pastori che andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette da loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questo è accaduto 8 giorni prima, no? Il 25, la notte tra il 24 e il 25 di dicembre, e Maria medita nel suo cuore quello che è accaduto il 25 dicembre, lo porta nel suo cuore anche il 1 gennaio, quindi porta nel suo cuore le cose accadute nel tempo, nella sua vita, e in questo modo, penso, lei può ringraziare Dio, no? Meditando nel suo cuore. Anche noi portiamo nel cuore, per esempio adesso, forse molte di voi nella preghiera di oggi pomeriggio, di questa mattina o di questi giorni scorsi, forse ha potuto ricordare, non so come si può ricordare, si possono ricordare 365 giorni, no? Però voi avete una grande capacità di ricordare, e di ricordare tante cose, e come Maria, quindi riportate nel cuore per ringraziare Dio, no? Allora, ecco, sappiamo benissimo che non è la guerra, no? Non sono i bombardamenti, quindi siamo tranquilli, no? Tante prove della vita, ma non quello che ebbero i nostri, insomma, padri nei bombardamenti del 44. Sono i botti, sappiamo bene. Allora io penso che noi possiamo chiedere a Maria, Giuseppe e Gesù di riuscire a custodire nel cuore sia le cose che ci hanno fatto soffrire, sia le cose che ci hanno fatto gioire, cioè tutto quanto, perché magari, non so, magari possiamo, qualcuno per carattere o per indole può ricordare di più le une o di più le altre, e forse, non so se c'è una tendenza comune a ricordare di più le cose negative, forse no, forse sì, ma in ogni caso noi cerchiamo di vederle come carezze del Signore, come grazie, come provvidenza, cioè chiediamo la grazia di Dio per vederle così, no? E sicuramente Maria le ha viste così, no? Nella sua vita, e Giuseppe le ha viste così, anche se sono, magari le ha viste così dopo, no? Dopo quando... le hanno viste come anche quelle, le vicende meno brillanti, più difficili, come occasioni per amare, no? E in effetti quando oggi il Papa faceva riferimento nelle parole che ha detto nel corso del Te Deum, primi vespri Te Deum di ringraziamento, appunto alla lettera di San Paolo che leggiamo anche oggi nella messa, ai Galati: fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E lui mette in evidenza questa pienezza del tempo, pienezza del tempo. e colpisce l'espressione pienezza del tempo, assume una risonanza particolare in queste ore finali di un anno solare, in cui ancora di più sentiamo il bisogno di qualcosa che riempia di significato lo scorrere del tempo. Qualcosa, o meglio qualcuno, e questo qualcuno è venuto, Dio l'ha mandato, è il suo figlio Gesù. Abbiamo celebrato da poco la sua nascita, è nato da una donna, la Vergine Maria. È nato sotto la legge, un bimbo ebreo sottomesso alla legge del Signore, ma com'è possibile, come può essere questo il segno della pienezza del tempo? Certo, per il momento è quasi invisibile, insignificante, ma nel giro di poco più di 30 anni quel Gesù sprigionerà una forza inaudita che dura ancora e durerà per tutta la storia, la forza dell'amore. È l'amore che dà pienezza a tutto, anche al tempo. E Gesù è il concentrato di tutto l'amore di Dio in un essere umano. No? È bella questa espressione, il concentrato, no? Dell'amore di Dio in un essere umano. È l'amore che dà pienezza a tutto, la forza dell'amore. In effetti nel corso di Dio che ho appena fatto, ascoltando, no? Tante considerazioni di altri, no? Finalmente tacendo, io che parlo sempre, e in una brevissima conversazione di un quarto d'ora, il giovane che diceva le sue considerazioni a un certo punto ha detto una frase che mi ha colpito molto, e poi anche un'altra che mi ha pure colpito, poi gli ho chiesto: scusami, ma da dove ti vengono? Ah no, mi sono messo lì a pensare, quindi... Bene, Spirito Santo, non nessun autore. Allora, la prima considerazione, semplice, sempre un po' en passant, è questa, no? Che siccome Gesù è l'amore, Dio è amore, no? Gesù è Dio, allora l'amore, cioè Dio attraverso l'incarnazione entra nel tempo e quindi l'amore entra nel tempo. E quindi no, questo, cioè il fatto che, e quindi il tempo, adesso poi non so, non mi ricordo più quello che ho pensato io, quello che ha detto lui, comunque, e cioè il fatto che Dio sia amore e che l'incarnazione è un dato di fede, che l'incarnazione sia Dio che entra nel tempo, lo sapevo, però mettere insieme queste due cose, cioè l'amore entra nel tempo e quindi ah no, ecco, perché lui concludeva, e quindi per l'amore ci vuole tempo. Interessante questo non l'avevo mai pensato. Cioè, voglio dire, ho pensato che per l'amore ci vuole tempo, sì, lo so, però collegarlo con l'amore di Dio che si fa uomo, entra nel tempo, lui è l'amore, quindi c'è bisogno di tempo per l'amore, no, questo passaggio non l'avevo mai fatto e mi è sembrato molto interessante. Infatti gli ho chiesto: e posso metterlo nel mio prossimo libro? Dico: oh, non c'è nessun problema, perché vabbè, non ti devo citare, no? E quindi l'ho messo, cioè vediamo se... E quindi l'ho messo anche con questa idea che abbiamo, cioè il tempo è tempo per amare, no? E per amare c'è bisogno di tempo. Allora, se questo deriva dall'incarnazione Gesù, dalla tua incarnazione, dal fatto che tu che sei Dio, che sei amore, entri nel tempo e cominci a vivere nel tempo, e allora cioè, forse noi possiamo avere, come dire, nella nostra vita spirituale, nella nostra vita interiore, un radicamento più forte della convinzione che il tempo che tu ci doni è un tempo per amare. 2019 per amare, 1 gennaio, 2 gennaio, 3 gennaio, quindi giorno per amare, no? Quando ci svegliamo al mattino, se ci svegliamo, nel senso, a me capita qualcosa di non svegliarmi, e anche stamattina sono venute, meno male che c'era una concelebrazione, quindi sono venuti l'altro prete è venuto a svegliarmi perché, vabbè, comunque, bene, bello, no? Poi lui mi dice, ah, che bello, sono venuto a svegliarmi, come le mamme vanno a svegliare il loro bambino. Comunque, quando ci svegliamo, comunque sia, quando ci svegliamo, magari ci svegliamo alle 10:30 del mattino, no? Quando, insomma, i metabolismi hanno preso il loro ritmo, possiamo pensare, questo giorno mi è stato donato per amare, nel lavoro, nelle relazioni, insomma, attraverso le cose belle, attraverso le cose difficili, questo, cioè, Gesù, tu sei entrato nel tempo per amare e io sono già nel tempo, però appunto quando mi sveglio mi rendo conto di essere nel tempo e posso pensare, questo tempo, questo giorno, questo anno mi è stato dato per amare. Dopodiché il problema è riuscire a, e perché poi il tempo è come le torte, cioè a un certo punto finisce, no? Cioè, cioè nel senso, tagli e a un certo punto finito, no? E, infatti, vabbè, se uno arriva tardi a colazione, no? A volte, infatti anche nel corso di tiro uno è arrivato qualche minuto più tardi e insomma era finito il prosciutto, e quindi... E lui dice, ma com'è possibile? Come dice, beh, ci sono alcuni... Gli diceva qualcuno, sai, ci sono alcuni snodi del tempo che vanno tenuti presenti, non si può così sorvolare su... Cioè, alcuni kairos, no? E penso che i giorni successivi si sia affrettato verso la colazione. E quindi, diciamo... Bene, allora il tempo ci è dato per me, no, poi appunto, poi cioè, indubbiamente noi chiediamo al Signore la grazia, l'illuminazione dello Spirito Santo per poter donare il nostro tempo in modo opportuno, perché appunto poi è limitato, no? È finito, cioè il tempo è molto preso dal lavoro, cioè, però certo se anche nel lavoro io riuscissi a come dire, ad avere con la grazia del Signore un cuore aperto all'amore nel lavoro, come è possibile nel lavoro, no? E non lo so, però forse è possibile non pensare solo alla concentrazione sul da fare, su, ecco, sulla, poi dipende anche dai collaboratori che abbiamo, dipende da tante circostanze, no? Però indubbiamente noi penso che possiamo unirci comunque al lavoro di Gesù, al lavoro di Maria, al lavoro di Giuseppe, che nel tempo hanno lavorato per amore. E quindi la pienezza del tempo è pienezza dell'amore. No? Così ci dice San Paolo, così ci dice il Papa oggi, e noi ci rendiamo conto che... Ecco, però io ci rendiamo conto che siamo... magari in difficoltà a vivere così, però io vi direi anche, e mi dico che, e penso che il Signore ci incoraggi, nel senso di dirci, è molto importante anche l'orientamento della tua vita, cioè tu hai donato la vita al Signore, vuoi l'offerta delle azioni fatta anche una volta per tutte, no? Anticamente ai sacerdoti suggerivano, per evitare gli scrupoli, non so se lo fanno ancora nelle... perlomeno a noi l'hanno fatto nel nostro seminario della prelatura, lo facevano, dicevano, cioè Don Alvaro lo consigliava, insomma, di fare l'intenzione semel pro semper, no? Che significa in latino una volta per sempre, no? L'intenzione di consacrare, cioè quando celebro la messa, o l'intenzione di assolvere, cioè secondo la volontà della Chiesa, e l'intenzione di assolvere dai peccati quando do la soluzione, no? E non è che sia necessario, però perlomeno, perché se uno potesse dire, ma mi sono distratto in quel momento mentre dicevo la consacrazione, chissà se, no? Potrebbe essere, chissà se c'è stata, se è valida, se... E invece così, per togliere qualunque scrupolo, anticamente c'era questo consiglio. Ma allora, al di là di questa consuetudine antica di alcuni luoghi, È interessante l'idea del semel pro semper, cioè uno dice una volta per sempre, dico al Signore, io ti offro tutta la mia vita, tutto il mio lavoro, tutte quel tipo di azioni, tutta la vita in famiglia, tutte le relazioni ecco, di fraternità, ma anche con le persone che non conosco, così via, unite a te perché tu sia presente in me e santifichi, no? E faccia del bene, come facevi, dice il Vangelo di San Marco, no? Che passavi facendo il bene, no? E come Pietro che la sua ombra guariva i malati, no? Cioè tu ben dentro di me, allora io ti offro tutto, quindi a volte anche se mi dimentico, anche se magari sono alle prese con i miei pensieri, con le mie preoccupazioni, con le mie lotte interiori, magari banali, che però mi distraggono, mi magari anche mi umiliano, non so, mi deprimono, non so, e perché mi sembra di non riuscire, no? Di non essere capace, di mi umilio. Ecco, allora, in realtà il Signore ti sta dicendo, ma tu sei unita a me, tu sei amata sempre da me, tu sei nei miei pensieri, sempre tu sei sempre guardata da me, sempre, io sono dentro di te, io abito nel tuo cuore, io agisco con te, io lavoro con te, io amo con te, io gioisco con te, io parlo con te, io ti ispiro, tante cose da dire, da fare, da pregare, tante gioie nel tuo cuore, tante, conto tutte le tue lacrime, no? Come dice il Salmo 56, nell'otre, dun, dun, dun, otri molto grandi a volte, oppure non so, non so poi se dissetano, no? Tutte le lacrime, no? Bibita di lacrime nell'otre, però il Salmo dice che conta tutte le nostre lacrime e le conserva. Quindi in questo senso noi facciamo della nostra giornata una preghiera, no? Noi facciamo della nostra giornata una messa, no? Di tutta la nostra giornata, di tutto quello che succede, no? Anche delle piccole contrarietà, no? Che so, a me è capitato recentemente, contrarietà o no, so, con la macchinetta, con la Yaris ibrida, andare avanti e indietro da Como per vari motivi, allora una volta, la prima volta tutto contento, stavo telefonando e passo dal casello del telepass, ma non avevo il telepass perché ero, cioè il giorno prima avevo usato un'altra macchina che aveva il telepass, il giorno prima, quindi adesso sto andando verso Urio, il cazzello di Curio, Como, no, meno male che non c'era la sbarra, però ho visto questi due semafori rossi che non diventavano verdi e poi ho detto mamma mia. Poi dopo è stato più semplice del previsto, io ho pensato già, mi insegue la polizia, mi arrestano, vado in carcere. Poi, sai, siete queste avventure giudiziarie, poi non riesco a giustificare la mia innocenza, poi 10 anni di carcere, no? Perché ho pensato il peggio, però in realtà poi siccome era una macchina collegata comunque con un telepass che non c'era nella macchina, era nell'altra, e allora è stato semplice al casello, ho trovato un uomo comprensivo e ha sistemato tutto. E allora oggi per risolvere ho comprato una tesserina di queste qui, via card, no? Ma che bello, finalmente c'ho via card. Poi al secondo tentativo il cosino dice tessera non leggibile, tessera non leggibile. Insomma, vabbè, sono banalità, no? Però la vita è fatta anche di queste contrarietà. Allora, le do le, non le do la cosa e il ticket per pagare, non so come farò. Ma poi però passo dal casellante, il quale vede che sono un prete e dice ah, ma un uomo di chiesa, allora io adesso con lei credo di più, cioè, come dire, no? Cose belle e cose negative, cioè è il casellante che avevo già visto una volta che da Como verso Milano, che ho ritrovato, dice ma noi ci siamo già visti, allora, quindi cose belle e cose negative, forse bisogna passare dal casellante sempre, no? Pagare la moneta. Quindi le cose belle e le cose invece faticose, complicate, noi tutte queste fanno parte della nostra messa, cioè ogni giornata è 365 messe, no? 365 giorni di preghiera, no? E voi vi ricordate, cioè non so se vi ricordate, comunque io a un certo punto ho captato ed è questo dato che poi diversi predicatori dicono, io l'ho ascoltato dal cardinale Ravasi in una messa a Guello di Bellagio, dice che nella Bibbia il non temete o il non temere è detto 365 volte, quindi in tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, per 365 volte il Signore dice, in qualche circostanza, qualcuno, non temere o non temete. E quindi è bello pensare che ce n'è uno, non temere perché sei figlio di Dio, non temere perché Dio ti ama, non temete, no? Piccolo gregge, non temete, non abbiate paura, non abbiate paura. E quindi possiamo tenerlo. Maria, tu hai ascoltato non temere nell'annuncio e poi non solo. Giuseppe, tu hai ascoltato non temere, no? Gesù, tu hai detto tante volte non temete, no? E allora anche questa può essere una piccola grazia da chiedere al Signore, che noi in questo anno possiamo ascoltare diverse volte, cioè tutti i giorni, almeno una volta, questo non temete. Però vorremmo noi rispondere a questo non temete con un grazie, con un ti amo, detto a Gesù, detto a Maria, detto a Giuseppe, detto all'angelo custode, insomma detto a tutta la dimensione, e anche un ti amo detto con le parole, detto con i gesti, detto con l'attenzione, detto con il sorriso, detto con lo sguardo, detto insomma nei mille modi che abbiamo di dirlo, per esempio al sud lo dicono con il cibo, no? Ti amo, no? Detto ai nostri fratelli, no, non solo con il cibo ma anche con il cibo, ai nostri fratelli, cioè alle nostre sorelle, insomma alle persone che amiamo, le persone, e anche a quelli lontani, agli sconosciuti, a coloro. Oggi il Papa parlava dei senza tetto, dei 10.000 che sono senza tetto a Roma, quindi dice la Chiesa di Roma deve dedicarsi a loro, no? Per cui ecco, teniamo presente questa bellissima sensibilità del Papa e che vuole scuotere appunto la Chiesa, perché siamo attenti a coloro che sono più lontani, a coloro che hanno di meno, a coloro che soffrono di più.